Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente l'OCSE ha diffuso i dati sulla stima economica e purtroppo non sono belle notizie per l'Italia, nel senso che è l'unico dei paesi del G7 che vedrà, non è tanto il problema della competitività, lo dico subito, quello comunque siamo bassi, però l'OCSE ha stimato che pur non rischiando una nuova recessione l'Italia, la ripresa economica a livello globale rallenterà più del previsto, e questa è la prima notizia non bella, ma soprattutto per quello che riguarda l'Italia noi saremo l'unico paese dei G7 ad avere un terzo trimestre con un meno 0,3% nel PIL. E questo obiettivamente non fa piacere. Parleremo di questo, parleremo però anche dei dati sull'export diffusi ieri. Oggi c'è il bilancio anche della SACE, dei primi sei mesi della SACE, che è sostanzialmente la società pubblica che è il gruppo assicurativo finanziario che assicura le imprese italiane quando vanno all'estero nel credito all'esportazione, si chiama in gergo, e anche nella protezione degli investimenti in oltre 180 paesi. Ebbene, la SACE ha assicurato molte più imprese italiane rispetto ai primi sei mesi del 2010. Questa è una buona notizia, vuol dire che le imprese vanno all'estero, vanno a fare investimenti all'estero o comunque chiedono garanzie per operazioni Italia su estero. E ancora l'export nei primi sei mesi comunque non si è mosso male. Andiamo avanti con le altre notizie. I mercati vanno bene, più 1,3% Milano, più 1,1% Parigi, più 0,90% Francoforte, più 1% Londra, l'America più 0,7%. L'euro a quota 1,2725, quindi non c'è per ora un rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro, come invece è avvenuto per lo yen, che si è molto, ne abbiamo parlato ieri lungo tutta la puntata, molto rafforzato nei confronti del dollaro. Chi va meglio? La Popolare di Milano più 3,80, bene oggi tutte le banche, devo dire. La Popolare di Milano più 3,80%, Intesa San Paolo più 3,1%, Buzzi Unicem, che non è una banca, più 2,90, Banco Popolare più 2,70, il 2,60 lo guadagno in credito, il 2,30 Fiat, il 2,1 CIR, l'1,90% Campari, ST Microelectronics, l'1,80 Monte dei Paschi, Mediobanca e Italcementi, l'1,7 Parmalat, l'1,6 rialzo di UbiBanca e di Pirelli, l'1,3 quello di Luxottica e Prismian, l'1,2 quello di Generali, l'1,1 di Autogrill, l'1% guadagna Mediolanum, perde solo Telecom Italia, l'1%. Allora, il numero per i vostri sms è come sempre 349-238-6666, partiamo con le notizie in breve. Allora, il petrolio $75,4 in leggero rialzo, più 1%. Dall'America le notizie, beh, già i nostri GR vi hanno raccontato del piano che è arrivato nella notte di Barack Obama, molto annunciato dopo quello sugli investimenti infrastrutturali, i tagli fiscali alla classe media permanenti, li ha definiti Obama, e tre giorni fa appunto annunciò il piano infrastrutturale. Niente tagli fiscali invece sopra i redditi da 250 mila dollari. Per tutti gli altri invece arriveranno tagli fiscali, così ha promesso Obama, che ha detto l'economia è forte solo se la classe media è forte. Dal Beige Book americano ieri erano arrivate comunque notizie di un segnale di rallentamento dell'economia. Devo dire che purtroppo non c'è notizia, ne stiamo parlando dal rientro dalle vacanze, e questo è il dato. Ancora, per quello che riguarda le notizie di carattere internazionale, oggi dall'America è arrivata una notizia sul deficit commerciale, cioè la differenza tra esportazioni e importazioni. L'America continua a importare più di quanto non riesca a esportare, ma il dato è migliore delle attese e segnala comunque una vivacità anche nell'export americano, sicuramente aiutata dal dollaro basso. È calato il deficit a 42,8 miliardi di dollari a luglio. Quindi questa è la differenza tra quanto esporta e quanto importa. Importa per 42 miliardi di dollari in più di quanto non riesca a esportare, dato comunque migliore delle stime. Meno 14% per l'esattezza il calo nel deficit commerciale americano. Buono anche il dato, e qui si sono mossi i mercati, sui sussidi alla disoccupazione in America. Sono calati meglio delle attese, sono 27.000 sussidi di disoccupazione in meno, per un totale di 451.000 sussidi di disoccupazione la settimana scorsa, dati negli Stati Uniti. Però ripeto, dato migliore, meno richieste. Ancora per quello che riguarda i paesi europei, questa volta è purtroppo schizzato il rischio che i mercati vedono, che i mercati pagano sul possibile default, quindi collasso dell'Irlanda, sul debito dovuto soprattutto al debito delle banche irlandesi. Perché? Perché CDS, Credit Default Swaps, questa cosa che abbiamo imparato purtroppo a conoscere con la crisi del 2008, che misurano, ripeto ogni volta, come il premio che noi paghiamo all'assicurazione sulla polizza a seconda di quanto siamo poniamo degli automobilisti bravi o invece non bravi. Più a rischio siamo, più alto è il premio. Ecco, i CDS funzionano in questo modo: se tu vai a comprare debito, obbligazioni di un paese e ti vuoi assicurare nel caso che il paese poi non riesca a ripagare il suo debito, compri una polizza assicurativa. Più alto è il premio che paghi per questa polizza, più vuol dire che il paese di cui tu hai comprato debito attraverso i bot è a rischio. Allora, i CDS sull'Irlanda sono schizzati a un livello altissimo, 382 punti di differenza con quelli tedeschi, e tra l'altro quelli sulla banca Anglo-Irish sono a 800 punti. Per cui il mercato stima che nel 50%, cioè dà una possibilità di fallimento pari al 50%. Anche sulla Allied Irish Bank sono aumentati di 500 punti e sulla Bank of Ireland sono arrivati a 400 punti. Per dare un esempio di quanto venga considerata a rischio l'Irlanda, la Grecia è a 900 punti come premio che bisogna pagare per assicurarsi sul debito greco, la Spagna a 235, il Portogallo a 330. L'Italia 212, quindi dopo la Grecia 900 punti, c'è a 380 punti l'Irlanda. E veniamo allora a Barack Obama, che dicevo ha annunciato un piano di tagli fiscali sopra i redditi da 250.000 dollari, non ci sarà però nessun taglio, e ha chiesto, attenzione, la classe media è il motore della ripresa economica duratura. Questi tagli devono restare anche in maniera permanente, se possibile, la classe media. Molto è cambiato da quando sono stato qui negli ultimi giorni della scorsa campagna elettorale. Ma quello che non è cambiato sono le scelte che deve affrontare il paese. La paura contro la speranza, il passato contro il futuro. E ancora la scelta tra ripiegare sul passato o andare avanti. E questa è esattamente la scelta che avrete di fronte a novembre. Ora abbiamo una visione diversa del futuro. Io non ho mai creduto che il governo abbia tutte le risposte ai problemi. Non ho mai creduto che il ruolo del governo sia quello di creare posti di lavoro o benessere. Credo invece che spetti agli imprenditori e alle piccole imprese e che sia un compito possibile grazie alla determinazione dei nostri lavoratori. Ed è su queste basi che siamo diventati il paese più ricco al mondo. Credo che debba essere il settore privato il motore principale della ripresa. Credo che il governo debba essere efficiente e che debba lasciare libere le persone di compiere le scelte migliori per le loro famiglie e non recare danno agli altri. Ma usando le parole del primo presidente repubblicano Abramo Lincoln, penso che il governo debba fare per la gente ciò che non riesce a fare per se stessa, nel migliore dei modi. E allora, adesso arriveremo anche alle previsioni del bollettino della Banca Centrale Europea e soprattutto dell'OCSE, abbiamo uno spazio apposito. Vorrei però citare ancora due notizie che riguardano invece l'Italia e i costi della politica, della pubblica amministrazione, visto che parliamo molto di federalismo, di come le varie regioni si stiano muovendo verso un principio federalista, di progressi, insomma, ci sono due notizie che... Tenetevi forte, faranno già arrabbiare probabilmente chi ascolta. Allora, una notizia che arriva da un'inchiesta pubblicata dal Giornale di Sicilia che oggi alcuni quotidiani hanno ripreso. La giunta provinciale di Palermo è costata nel 2009 607.000 euro e 95 centesimi, passi per i 95 centesimi. Ma insomma, sono 61.000 euro i rimborsi. Cioè, questo stiamo parlando della giunta provinciale, non stiamo parlando della regione Sicilia né del comune di Palermo. Le province che in campagna elettorale anche l'attuale governo voleva eliminare. Bene, tutti le vogliono eliminare in campagna elettorale. Allora, vediamo cosa costa la provincia di Palermo. 607.000 euro, di cui 61.000 euro di rimborsi per i consiglieri provinciali che risiedono fuori città. Ora, se è una provincia, io capisco che la provincia di Palermo sia grande, ma quanto sarà la distanza per arrivare in città? Va bene, 1.600.000 euro l'anno costano i consiglieri provinciali, tutto bene, immagino. Poi c'è anche il comune di Palermo, non ce l'abbiamo con Palermo, però obiettivamente per non occuparci di loro dovrebbero spendere un po' di meno, mettiamola così. Il comune di Palermo ha 8 circoscrizioni comunali che costano 19 milioni e mezzo di euro solo per il personale e 1 milione e 710 mila euro per gettoni ai consiglieri e ai presidenti circoscrizionali. Se questa è la stile del federalismo, stiamo freschi. 850 mila euro per rimborsi alle ditte da cui dipendono, questo mi risulta veramente inspiegabile, va bene. 2.974.000 euro è la cifra di rimborsi di salari, stipendi e dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali, senza contare che gli ospiti di sala delle lapidi, che sono dipendenti di un altro ente pubblico, vengono rimborsati da quest'ultimo. Insomma, qua si arriva a 3 milioni di rimborsi di salari, stipendi e gettoni di presenza comune, più la cifra che vi ho già detto per la provincia. Ancora, poi c'è, insomma, dato, visto che la casta era il tema forte nel 2007-2008, la casta, i costi della politica, poi adesso non se ne parla più dei costi della politica, noi invece ci ricordiamo, continuiamo. Allora, la presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2009, quindi qui parliamo del governo centrale di Roma e quindi della presidenza del Consiglio dei Ministri, ha superato il tetto dei 5 milioni di euro, 5 milioni 258 mila. Un miliardo in più rispetto al 2008 e al 2007. Per carità, c'è il Dipartimento della Protezione Civile che ha drenato risorse per 3 miliardi e 600 milioni, di cui 2 miliardi di investimenti per la protezione civile e 1 miliardo e 600 milioni di spese correnti. A inizio anno i tecnici di Palazzo Chigi avevano previsto meno di 1,5 miliardi, però tra G8, il terremoto, ci mancherebbe, alluvioni, lì la spesa è lievitata. Comunque, poi ci sono anche casi interessanti, cioè per il disagio sociale della donna il ministro delle pari opportunità Mara Carfagna poteva contare su 3 milioni di euro integralmente coperti dai fondi dello Stato. Non è stato speso neanche un centesimo e i soldi sono finiti, perché già prenotati, alla protezione civile. Poi c'è il contrasto alla pedofilia, il governo aveva stanziato 7 milioni di euro, ma avendo speso appena 100.000 euro, non voglio far battute, evidentemente la pedofilia non era un grosso problema, ma 100.000 euro invece che 7 milioni, e poi ci sono voci come il contrasto alla repressione alle mutilazioni genitali femminili, importantissimo come tema, lo dico molto seriamente, 52.000 euro spesi con 2 milioni e mezzo di euro messi a bilancio. Vabbè, cambiamo tema, anzi iniziamo col primo tema, sennò poi così ci avveleniamo la puntata. L'OCSE, le previsioni economiche, le previsioni di un rallentamento nella crescita, non di una recessione. È l'unico paese, però, purtroppo, che anche che nel terzo trimestre avrà il segno meno nel PIL è l'Italia. 349-238-6666 per i vostri SMS. Vedo che molti chiedono di paragonare anche le cifre con la media delle altre province. Devo dire che purtroppo sono le più alte. Lo faremo, l'abbiamo fatto. Era un'ultima notizia che era arrivata da un'inchiesta, che ripeto, del Giornale di Sicilia. Per quello che riguarda la presenza del Consiglio dei Ministri, invece, il miliardo in più che è costata è solo in parte imputabile al terremoto. Comunque ci sono delle voci obiettivamente così strane. Andiamo avanti, siamo d'accordo che in Sicilia non è federalismo, è una regione autonoma, però insomma c'è modo e modo anche di spendere. Però adesso devo passare al tema dell'OCSE. L'OCSE oggi ha diffuso i dati sulla previsione economica nel giorno in cui anche la Banca Centrale Europea ha detto che la ripresa sarà moderata, ma resterà una ripresa. C'è un'incertezza sul tipo di crescita delle altre economie avanzate. L'OCSE è un po' più pessimista, dice che la crescita economica rallenta più del previsto, il rischio di disoccupazione continua a pesare sui consumi e ci sono anche incertezze dovute all'andamento dei debiti dei vari paesi. Parlavamo prima dell'Irlanda, del Portogallo, della Grecia, e poi insomma una gelata sull'Italia, che dice insomma, l'Italia farà meno 0,3 nel terzo trimestre, unico paese del G7 ad avere una recessione nel terzo trimestre, il segno meno. E ancora c'è un rischio per gli investimenti dall'incertezza politica in Italia. La collega dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, Giuliana Licini, ha intervistato su questo, gli ha chiesto un commento, il capo economista dell'OCSE Piercarlo Padoan. I dati che abbiamo escludono che ci sia una contrazione, ma sono anche dati che sono in un contesto di elevata incertezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che se si osserva un insieme di dati, alcuni segnalano delle debolezze nel quadro economico, altri segnalano invece degli elementi positivi. Mettendo insieme queste cose si ottengono da una parte i numeri che sono stati presentati oggi, ma ci si rende conto che questi numeri sono soggetti a incertezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che non sappiamo, spingendo più in là l'orizzonte di previsione, cosa succederà. Quindi nel momento noi escludiamo una contrazione, ma non è detto che questa non ci sia in futuro, e tant'è vero che nel fornire raccomandazioni di politica economica le raccomandazioni sono, come si dice, condizionali, cioè dipendono dal verificarsi o meno della possibilità di una contrazione in futuro, che però per adesso non vediamo. Immagino che l'attenzione soprattutto in Italia sia attratta da quel meno, però sì. Quel meno non va preso alla lettera. Innanzitutto c'è un, come si dice in termini tecnici, un intervallo di confidenza piuttosto ampio, e quindi io non direi che c'è una crescita negativa in Italia, direi che c'è una crescita molto bassa, vicino allo zero. L'Italia rallenta come rallentano le altre economie, ma, e questa non è una novità, l'Italia in generale cresce meno degli altri paesi per ragioni di fondo, ragioni strutturali, quindi non mi preoccuperei più di tanto del meno zero punto. I problemi della crescita dell'Italia sono strutturali, sono di lungo periodo. Sono i dati peggiori del tutto il G7, però questa non è una novità, che l'Italia va più piano dei suoi, come dire, simili. Si riflette anche in un andamento congiunturale. Trovare le cause dell'andamento di questi numeri è un po' difficile. Perché? Perché questi numeri sono basati su indicatori diversi da paese a paese, sono, diciamo, una raccolta dei numeri disponibili. Quindi possono essere dati di produzione industriale, possono essere dati di aspettative o di grado di fiducia delle imprese. Nel caso italiano un elemento che ha pesato negativamente su questi numeri è la fine delle misure di sostegno dell'acquisto di veicoli, e quindi che ha a sua volta impattato negativamente sulla domanda. Questo è stato uno dei fattori, quello è uno degli indicatori che nel caso dell'Italia contribuiscono a fornire queste stime. L'Italia, come dicevo, e questo lo sappiamo da tempo, ha dei problemi di crescita strutturale, oltre ad avere, come sappiamo bene, un alto debito. Non dimentichiamoci che la crescita lenta dell'Italia e degli altri paesi avviene in un contesto nel quale tutti i paesi sono impegnati nel consolidamento fiscale. La nostra raccomandazione è che il consolidamento fiscale debba continuare e quindi le politiche di bilancio vanno prese in quella prospettiva. A proposito del Ministro dell'Industria, posso dire questo, che sicuramente c'è bisogno di riforme in vari settori per agevolare la crescita della produttività in Italia, quindi l'azione di politica economica si dovrebbe indirizzare su questi due obiettivi: mantenere il consolidamento fiscale, mettere in campo misure che permettano una crescita della produttività di medio periodo. Così il capo economista dell'OCSE Piercarlo Padoan. L'OCSE ha sede a Parigi, lo dico a chi ci chiede informazioni, è l'organismo per la cooperazione e lo sviluppo economico, raggruppa i principali paesi che una volta si chiamavano sviluppati, sono le principali economie industriali, e le stime, ci chiedete che affidabilità abbiano, buona direi, tranne che quando è arrivata la botta del 2008 lì hanno sballato tutti, OCSE, BCE, Fondo Monetario, Fed, lì non l'ha azzeccata quasi nessuno. Adesso andiamo col meteo, poi commenteremo la borsa che ha chiuso bene, poi i dati sull'export e anche il giro d'affari che muove il cinema italiano. Siamo infatti alle battute conclusive del Festival del Cinema di Venezia. Ancora però volete sapere sui costi, perché non cita i costi del Quirinale, perché cita solo i costi della Presidenza del Consiglio. Va bene, il Quirinale costa tanto in Italia, 241 milioni l'anno, il Quirinale si è impegnato a reperire autonomamente 17 milioni in più di aumento, il costo è comunque 8 volte quanto costa la presidenza tedesca, cioè il Quirinale tedesco, e 4 volte Buckingham Palace, c'è anche una regina lì, penso che i costi di Buckingham Palace non siano comunque bassi, eppure sono i nostri, sono 4 volte superiori. Però attenzione che non ci facciamo mancare nulla, il costo della camera bassa, come si chiama in gergo giuridico, diciamo la camera nostra, per ogni cittadino in Italia è di 16 euro, in Francia di 8 euro, in Germania di 6 euro, in Gran Bretagna di 4 euro, in Spagna di 2 euro. Il costo di un parlamentare in Italia è di 1.530.000 euro, in Germania è la metà, così come in Francia 800.000 euro, in Gran Bretagna è un quinto, 350.000 euro, in Spagna è 260.000 euro. Meteo, pubblicità e poi la borsa, 349-238-6666 per i vostri sms. Diciassette e 37 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Commentiamo adesso le borse, lasciamo stare i costi della politica, se no facciamo la puntata solo su questo. Poi i dati dell'export visti attraverso chi assicura le nostre imprese quando vanno a operare all'estero. Attenzione alla SACE, cioè non è che assicuri solo chi delocalizza, anzi assicura chi va a fare investimenti, accordi commerciali all'estero, quindi se ha raddoppiato i volumi è un buon dato. E poi la vicenda Ambrosoli, prendendo spunto dalle parole oggi poi corrette, ampiamente corrette, del senatore Andreotti, siccome quello fu un caso ben prima degli scandali Parmalat, Cirio e Enron, e poi il crack che è successo nel 2008, in cui ci fu una commistione strana, poi vedremo, tra finanza e politica, lì e forse anche la mafia, lì cercheremo di capire, perché poi si parla di Ambrosoli e nessuno o pochi ricordano, no, quello è doveva essere un paradigma perché le cose poi non capitassero più, purtroppo così non è stato. Adesso però la borsa, right, più 1,35%, Milano, più 0,90% Francoforte, più 1,22% Parigi, più 1% Londra. Milano quindi tra le migliori oggi, anzi forse la migliore in assoluto. L'America guadagna lo 0,70%, molto bene i bancari, dopo però sedute intere di cali. Ciao Condina, buonasera. Buonasera a voi. Agenzia di stampa Radio Corriere sulle 24 ore. Allora, Popolare Milano più 3,86%, Intesa più 3,1%, Buzzi Unicem più 3, Banco Popolare più 2,80%, Unicredito più 2,5%, CIR più 2,3%, Italcementi più 2,2%, Campari più 2% come Fiat, Estima Electronics più 1,90% come Parmalat, l'1,80% e rialzo di Mediobanca. E poi c'è Pirelli più 1,70% come UbiBanca. Monte dei Paschi più 1,70%, Luxottica più 1,5%, Generali più 1,1% come Impregilo e Mediolanum più 1% come Prismian ed Eni. I bancari. Sì, i bancari venivano, come hai detto tu, da sedute difficili, in particolare quella di due giorni fa, dopo le aspre critiche del Wall Street Journal, l'affidabilità degli stress test europei, quindi le borse sono ripartite ed è logico che gli acquisti siano concentrati poi anche sui titoli più penalizzati nei giorni scorsi, in particolare i bancari e poi anche quelli delle costruzioni, come accennavi tu. E infatti abbiamo visto Buzzi Unicem e Italcementi crescere molto, devo dire Impregilo già era cresciuta nelle scorse sedute. Telecom, oddio, non starei a fasciarmi la testa, meno 0,80, sempre inchiodata all'euro, 1 euro e 0,82. Sì, su Telecom c'è anche l'annuncio delle nuove tariffe unbundling da parte dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tariffe che si attendevano leggermente più alte, quindi a vantaggio di Telecom, sono arrivate un pochino più basse rispetto al previsto e quindi insomma meno ricavi per Telecom in futuro e quindi gli operatori hanno un po' punito il titolo, che comunque risente anche della scarsa brillantezza del settore TLC europeo, dove il sottoindice perde lo 0,3%. Ancora tra i titoli, per quello che riguarda invece la vicenda Unicredito, oggi numerose dichiarazioni, Flavio Tosi, sindaco di Verona, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, insomma non va giù a chi è espressione del territorio, in questo caso nord-est, Verona, ma non solo, perché ci sono anche delle fondazioni non solo Verona, delle partecipazioni non solo veronesi, dicevo non va giù l'ingresso dei libici. Comunque è stato consegnato il piano di riorganizzazione del cosiddetto bancone, un termine orribile, e la chiusura di 230 sportelli, questo è uno dei principali obiettivi del piano di riorganizzazione di Unicredito, e 4.700 esuberi confermati, di cui 600 dal vecchio piano, aumento dei ricavi del 5,6%. Allora, Campari. Campari guadagna, diciamo innanzitutto c'è un'opinione positiva degli analisti, in particolare quelli di Unicredito, ma se non vogliamo comunque dare particolare credito agli analisti, c'è un altro fatto che spinge il titolo: riparte il risico degli alcolici. Infatti il fondo di private equity Cerberus ha fatto un'offerta per gli asset del vino del colosso australiano Foster ha rifiutato, ma comunque si è reso disponibile a valutare proposte migliorative, di qui il fermento del settore con gli operatori che scommettono anche magari su un ingresso di Campari in questo risico. Sì, Foster è un colosso, l'Australia sembra strano, ma insomma, ha pochi gruppi nel vino, ma li ha enormi. Pensate che insomma da solo il primo produttore australiano fattura come i primi 10 italiani, per cui questo può dare il senso delle proporzioni, non tanto sulle bottiglie prodotte ma sul il valore delle società. Andiamo avanti invece tra i titoli più sottili, Male Grandi Viaggi meno 4, IKF meno 5, però i cali sono abbastanza, CareSelf meno 2,5, bene invece la Roma Calcio più 2,4%, Yorkville più 22%, Gabetti più 11,4%, Sopaf più 7,88%, Best Union più tutto più 5,70%. Poi c'è una notizia che riguarda l'Eni, che riguarda soprattutto però l'acconto sul dividendo. Il titolo oggi ha guadagnato l'1% a 16,50 euro per azione. Sì, però c'è oggi il Consiglio d'amministrazione ha deciso, come era poi previsto, di dare un acconto di 50 centesimi per ciascuna azione a chi possiede le azioni ENI, azioni che come sappiamo sono molto diffuse tra i piccoli risparmiatori, quindi ricordiamo che questo dividendo verrà messo in pagamento dal prossimo 23 settembre. Ancora sui titoli, per quello che riguarda titoli, oggi dico, le notizie sono soprattutto sui titoli sottili. Interpump, che è successo? Ma Interpump conferma il suo ottimo momento, sì. Oggi ha comunicato che nei primi 8 mesi dell'anno le vendite sono cresciute del 22,6%, gli analisti ma anche gli esperti del settore la indicano come una di quelle aziende che ha battuto prima di altri la crisi, come un gioiello del Made in Italy, e anche gli operatori di borsa sembrano pensare allo stesso modo. Questo per quello che riguarda la borsa, l'euro è a quota 1,2723, l'America guadagna lo 0,70%, grazie a Ciro Condina di Radio Corriere Sole 24 Ore, il traffico e poi parliamo dell'export, molti di voi ci chiedono anche di riascoltare in queste giornate in cui si dice il PIL non crescerà quanto le attese, il PIL italiano sarà più basso, di riascoltare quella famosa frase di Bob Kennedy pronunciata, un discorso bellissimo devo dire, proprio sulla tra virgolette inutilità del PIL, la faremo ascoltare se ce la facciamo a fine della prima ora. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti. Allora, dicevamo, se l'Ocse vede al ribasso, ahimè, col segno meno, il PIL italiano nel terzo trimestre, unico tra i paesi del G7, ieri è arrivata una buona notizia sul nostro commercio con l'estero. A giugno ha fatto più 22,8% il nostro export, è al massimo dal 2001 come dato, come incremento. Anche le importazioni sono cresciute più 30%, però l'export sta andando bene, in Germania più 29, in Francia più 22, in Gran Bretagna più 7%, parlo di giugno 2010 su giugno 2009, Spagna più 21, America più 32, Cina più 31, India più 41, l'area del Mercosur più 63%, allora parliamo di esportazioni. Il tessile abbigliamento ha fatto più 18% sull'anno prima, la chimica più 32%, gli alimentari più 13%, sempre nelle esportazioni, meccanica più 11%, elettronica più 28%, mezzi di trasporto più 26%, mobili più 10%. Dottor Alessandro Castellano, amministratore delegato del gruppo SACE, buonasera. Buonasera. Allora, la SACE è un gruppo assicurativo finanziario, che cosa fa? Glielo dico in maniera un po' brutale. Assicura il credito nell'esportazione, protegge gli investimenti, le garanzie finanziarie. Quando gli imprenditori devono andare all'estero, ma se fanno un contratto, c'è un investimento, vogliono delle garanzie, e voi, che siete un gruppo anche pubblico, assicurate gli imprenditori. L'ho detto in maniera un po' brutale, lei mi può correggere se vuole. Voi, tra l'altro, oggi avete diffuso i dati dei primi 6 mesi 2010, raddoppiati i volumi di appunto investimenti, crediti assicurati. 5 miliardi e 700 milioni di euro. Questa dovrebbe essere una buona notizia, cioè più assicurate, più vuol dire che gli imprenditori italiani vanno all'estero, ma non a delocalizzare, vanno all'estero, diciamo, a fare affari. Prego. Ma sì, diciamo che oggi andare all'estero vuol dire tante cose, vuol dire più di prima investire sui propri prodotti, vuol dire investire sul proprio marchio, sul proprio brand, vuol dire delocalizzare con anche joint venture sia produttive che distributive, e vuol dire esportare di più. Credo che, se vogliamo riassumere, come diceva lei, in modo brutale, il nostro motto è il Made in Italy non si ferma mai, e i dati che abbiamo visto nei primi mesi contribuiscono a confortarci. Su questo voi avete raddoppiato appunto i volumi di investimenti appunto assicurati. L'utile netto vostro però è sceso del 51% a 160 milioni di euro. Domanda, ma per un gruppo come il vostro l'obiettivo non sarebbe non avere utile, cioè, penso che, visto che voi siete a disposizione, mi passi il termine, delle imprese italiane, dovreste chiudere in pareggio, non dico come una ONG, ma insomma, giù di lì. No, mi consenta di non concordare con quello che ha detto. Noi siamo dal 2004 una società per azioni e pertanto abbiamo degli obblighi di rating e di conto economico e soprattutto da parte dell'azionista di creare valore. Il disvalore sta che creando non ricchezza e creando non utili non potremmo nel futuro sostenere le nostre aziende, per cui direi che indirettamente più utili fa questa azienda più ci conforta il fatto che saremo in grado nel futuro di poter sostenere e continuare a sostenere le nostre aziende. Però la sua domanda tocca un aspetto tecnico di questo momento particolare. Noi siamo una società anticiclica, cioè siamo una società che cerca di minimizzare in qualche modo gli aspetti negativi che attualmente ci sono nel mercato di minor erogazione del credito o di minor disponibilità a prendere rischi da parte degli altri intermediari, e questo è il nostro ruolo. Il fatto che ci sia una diminuzione degli utili è dovuta a due componenti. La prima componente è che per fare maggiori volumi dobbiamo fare accantonamenti sui rischi che prendiamo e sulla situazione del mercato finanziario, che rimane estremamente complessa, per cui il contributo finanziario relativo all'altra parte del nostro bilancio, che è il rendimento dei nostri, delle nostre riserve, dei nostri premi, è minore di quanto non sia stato nel 2009. Quindi, adesso io le avevo fatto anche una provocazione, è chiaro che sentire dire un amministratore delegato che l'utile non serve sarebbe strano, però vero è che voi più lavorate anche più si riducono i vostri margini. Per alcuni estremi, ed è chiaro che però dovete avere anche fine in cascina per poi continuare anche a operare e fare investimenti. Un'ultima domanda, dottor Castellano, sui paesi. Io citavo i dati di ieri sulle esportazioni, molto buoni, record dal 2001, l'incremento, il più 22%, voglio dire, è quello che vedete anche voi: la Germania più 30, Francia più 22, Spagna più 21, America più 32, Cina più 31, India più 41, le torna? Ma guardi, io credo che dobbiamo e dovremmo sempre di più imparare a rendere questi dati un po' più specifici, cioè sono dati che danno naturalmente una media generale. All'interno della media generale ci sono dati di eccellenza e dati naturalmente che sono mediocri. Il dato generale è un dato buono. Secondo me bisognerà capire se questo dato verrà confermato negli ultimi 4 mesi, rimangono incertezze sulla consistenza di questo dato in termini di tenuta, anche in Germania ha visto che c'è qualche diciamo sì, minore crescita che era del tutto naturale, per cui direi che le aziende italiane stanno reagendo bene, almeno dal nostro punto di vista, perché vediamo una maggiore capacità di andare su mercati diversi da quelli sì, usuali. Resta chiaro che se la Germania va bene, noi, dato che abbiamo una continuità, contiguità geografica e di prodotto, andiamo bene anche noi. Grazie amministratore delegato della SACE, presente tra l'altro in 180 paesi, Alessandro Castellano. Grazie a lei. Oh, uno che saluta bene, oh, finalmente, ogni tanto gli ospiti non salutano. Invece adesso per concludere parliamo di consumi, perché l'export va bene, invece i consumi no, ma ormai ce lo diciamo, lo sappiamo. Oggi la nostra Deborah Rosciani ha intervistato Vincenzo Tassinari, che è presidente di Coop Italia, perché Coop è uscito col rapporto consumi e distribuzione. Insomma, rispetto a una spesa prevista di 1.000 euro, cioè una spesa prevista di 1.000 euro, una spesa eccezionale di 1.000 euro in più, è in grado di mettere in difficoltà 2/3 dei cittadini. Tassinari. Per la prima volta dopo tanti anni i consumatori italiani purtroppo risparmiano e consumano meno anche nei prodotti alimentari, anche nei prodotti cosiddetti di prima necessità. Quando cala il consumo della pasta piuttosto che il consumo del caffè, il consumo delle conserve di pomodoro e altri prodotti di base, evidentemente vuol dire che l'italiano è molto propenso a valutare il risparmio e soprattutto a non sprecare. Qui andrebbe sviluppata una riflessione anche in termini di politica economica, a sostegno appunto delle famiglie italiane, non solo quelle in soglia di povertà, ma anche quelle che non sono in soglia di povertà, però che hanno uno o due figli che fanno sicuramente più fatica ad arrivare alla fine del mese. Una politica di sostegno di queste famiglie nei loro consumi sicuramente sarebbe più che opportuna. Ovviamente questo deriva dalle politiche del governo italiano, ma deriva anche da quello che fanno le istituzioni e le stesse imprese. Così Vincenzo Tassinari, presidente di Coppa Italia, il GR e poi l'omicidio Ambrosoli, il crack di Sindona e le lezioni imparate, quelle invece no. 349-238-6666 per gli SMS. e 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di un tema che è più di attualità che di cronaca vera e propria, e vi lo spiegherò tra un secondo. Un paio di risposte agli ascoltatori. Giustamente un ascoltatore che si firma Alex scrive che il federalismo nelle regioni deve spendere quanto incassa, il commento relativo ai costi della provincia, del comune di Palermo, siamo tutti d'accordo, così come sono d'accordo con altri ascoltatori che la Sicilia in questo momento non sia un caso di federalismo bensì di regione autonoma, perché in realtà poi i buchi che ha vengono ripianati, diciamo, dallo Stato, tranne il buco sanitario in cui il meccanismo è un po' diverso, e anche i comuni, voglio dire, in caso su tutti i 300 milioni di buco del comune di Catania ripianati prontamente. Però adesso ci occupiamo di un tema che apparentemente può sembrare solo un tema così di carattere storico, però in realtà purtroppo è anche di estrema attualità. Perché lo dico? Perché ci riferiamo all'omicidio di Giorgio Ambrosoli, che era il commissario liquidatore della banca privata italiana. Abbiate un po' di pazienza, perché su questo purtroppo i paralleli con i mancati controlli sull'attività della finanza, le collusioni e commistioni tra finanza e criminalità organizzata non sono relativi solo al 1974, quando Ambrosoli assunse l'incarico, fu poi ucciso l'11 luglio del 79. Perché ne parliamo? Il dato di cronaca è un altro. Oggi, anticipando un'intervista che andrà in onda questa sera con Giovanni Minoli nella puntata La storia siamo noi, il senatore Giulio Andreotti, a proposito dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli, intervistato dallo stesso Minoli, ha detto una frase che ha creato un vero putiferio, ha detto, come dicono a Roma, se l'è andata a cercare. Questa mattina Radio 24 ha raggiunto il figlio di Ambrosoli, il quale ascolteremo il passaggio dell'intervista, chiaramente molto duro su questo. Devo dire che poi lo stesso senatore Andreotti si è detto dispiaciuto per il grave fraintendimento, una mia espressione di gergo romanesco, abbia causato un grave fraintendimento sulle valutazioni delle tragiche circostanze della morte del dottor Ambrosoli. Devo dire scuse più che dovute, anche perché a suo tempo si avanzarono numerosi sospetti tra i rapporti tra lo stesso Sindone e Andreotti, per cui quanto meno inopportuna la frase. Detto ciò, sono arrivate anche le scuse di Andreotti. Noi però ne approfittiamo per parlare di quello che, con un film che molti di voi hanno visto, fu chiamato, anche in un libro molto importante, fu chiamato un eroe borghese. 349-238-6666 per i vostri SMS. E allora, visto che si dice sempre che questo è un paese senza memoria, vediamo di tornare alla memoria. Era il 1971, la Banca d'Italia, per mano dell'allora Banco di Roma, va a investigare sull'attività del banchiere siciliano Michele Sindona, perché cercava di non far fallire le banche allora gestite da Sindona, che erano la Banca Unione e la Banca Privata Finanziaria, e l'allora governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, cercò di non provocare il panico nei correntisti. Fu accordato un prestito a Sindona e fu incaricato il direttore del Banco Centrale di Roma di allora, Giovan Battista Fignon, di occuparsi. Si arriva all'agosto del 1974, alla fusione delle banche di Sindona, nasce la Banca Privata Italiana, sempre di Sindona, di cui Fignon diviene vicepresidente e amministratore delegato. Fignon però capisce che le operazioni messe in piedi da Sindona e capisce che c'è un crack che si nasconde dietro queste operazioni, e nel settembre del 1974 consegna a Giorgio Ambrosoli la relazione sulla Banca Privata Italiana. Quello che emerge da questa relazione induce nel 1964 il governatore della Banca Italia, Guido Carli, a nominare un commissario liquidatore. E fu scelto Giorgio Ambrosoli. Abbiamo preso un pezzettino di un film del 1995 di Michele Placido, un eroe borghese, in cui c'è il passaggio in cui il governatore Guido Carli nomina Ambrosoli. Nell'audio si sente la voce anche dell'allora vice direttore generale della Banca d'Italia, Mario Sarcinelli. I nostri ispettori hanno evidenziato nella conduzione della banca privata dell'avvocato Sindona sistematiche infrazioni alle regole amministrative e contabili, gravi violazioni delle norme civili e penali e un'alta propensione alla speculazione che hanno portato lo Stato attuale ad un passivo di 119 miliardi a fronte di un capitale sociale di soli 3 miliardi e 750 milioni. Ed è per questo che abbiamo deciso la sospensione del Consiglio di amministrazione e la liquidazione coatta della banca privata italiana. Vista l'urgenza e la delicatezza delle decisioni da prendere, il Ministero del Tesoro, del sottoscritto, il governatore della Banca d'Italia, e d'accordo con tutta la direzione, abbiamo deciso che lei sarà il commissario liquidatore unico. Il dottor Sarcinelli sarà suo interlocutore per tutta la durata dell'incarico. Congratulazioni, avvocato. Grazie. Sono sicuro che la sua preparazione la metterà al riparo dalle critiche, che comunque non mancheranno. A quel punto Ambrosoli assume la direzione della banca, esamina le operazioni di Sindona, scopre gravissime irregolarità. Già dalla voce dell'attore che imita Guido Carli si capisce qual è il buco della banca. Falsità e irregolarità anche nelle scritturazioni contabili. A quel punto Ambrosoli diventa oggetto di pressioni, di tentativi di corruzione. L'obiettivo, insomma, le pressioni vogliono che lui avalli documenti che comprovano la buona fede di Sindona. Perché? Perché in questo modo a quel punto sarebbe la Banca d'Italia a dover garantire per il buco della banca privata italiana, come avviene per altre banche private, e quindi, diciamo, tutto il buco di Sindona se lo sarebbe pagato lo Stato italiano. E Sindona avrebbe evitato ogni coinvolgimento penale e civile. Ambrosoli non cede, conferma la necessità di liquidare la banca, di riconoscere le responsabilità penali del banchiere Michele Sindona, presenta una prima relazione sul passivo della banca privata italiana, 417 miliardi di buco di allora, miliardi di lire di allora, una cifra immensa, più un prestito di 600 miliardi della Germania federale garantito dalla Banca d'Italia. Deve poi sottoscrivere una dichiarazione formale il 12 luglio del 1979, viene ammazzato il giorno prima. Il resto, ahimè, è cronaca. Il 18 marzo del 1986 vengono condannati a Milano Michele Sindona e Roberto Venetucci, trafficante d'armi che vi mise in contatto Sindona con i killer, condanna all'ergastolo. Due giorni dopo la condanna, Sindona viene avvelenato con un caffè al cianuro di potassio nel supercarcere di Voghera e il 20 marzo muore nell'ospedale di Voghera dopo due giorni di coma. E lì poi tutta la polemica se fosse suicidio o omicidio. Il PM che istruì l'inchiesta per l'omicidio dell'avvocato Ambrosoli è Gerardo Colombo, che è in collegamento con noi. Dottor Colombo, buonasera. Buongiorno, buonasera. Allora, lei prima giudice, poi giudice istruttore, contitolare delle inchieste sull'omicidio dell'avvocato Ambrosoli e poi tra l'altro sulla P2, sui fondi neri dell'IRI, fino a Mani Pulite. Dopo il traffico vorrei farle ascoltare cosa ha dichiarato il figlio di Ambrosoli oggi ai nostri microfoni e capire quale fu la portata finanziaria che portò all'omicidio di Ambrosoli. Non era un omicidio così dovuto a una ripicca, una vendetta. Di mezzo c'erano soldi, tantissimi soldi. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Vedo dei messaggi. Allora, nessuna polemica. Abbiamo letto la rettifica del senatore Andreotti. Non si può però scrivere, scusatemi, al 349-238-6666 Andreotti ha smentito. Ma cosa ha smentito? Ha detto una cosa che andrà in onda stasera nel programma di Minoli, La storia siamo noi, poi si è corretto, ha detto che è stato frainteso, ma non è che non l'ha detta. Per favore, con queste smentite. Comunque, la nostra Anna Migliorati ha raggiunto il figlio di Giorgio Ambrosoli e su questo ha chiesto chiaramente un commento a un avvocato, si chiama Umberto Ambrosoli, autore del libro Qualunque cosa succeda, edizioni Sironi. Io non so se le parole del senatore Andreotti rappresentano un sentire comune, francamente ho la sensazione opposta. Esistono i cinici, che talvolta si occupano dei ruoli di responsabilità, vi abdicano, rinunciano alla propria libertà nel nome di un adeguamento a un certo stile di potere, nella convinzione che non sia possibile desiderare altro che quel potere e che tutti aspirino a fare esattamente quello. Ma esistono anche persone che la pensano diversamente. Secondo lei la storia di suo padre resta un'anomalia nella storia italiana? Spesso ci capita di considerare in termini straordinari alcune persone perché la loro azione si conclude con il sacrificio della loro vita. Ma non sono gli unici soggetti, sono pochi, sono tanti, non so neanche se questo importa. So che importa il fatto che esista un esempio che ci dica che è possibile cambiare le cose. Politica, economia, interessi criminali più o meno legittimi. Ieri e oggi, lei fa l'avvocato peraltro come suo padre, cosa è cambiato? Ma in alcuni contesti si è riusciti a fare, tra virgolette, tesoro delle esperienze e a cercare di modificare il sistema, il più delle volte il sistema normativo, per evitare che determinate situazioni si presentino di nuovo. Il settore economico finanziario, per quanto paradossale possa sembrare, è proprio uno di questi. Se pensiamo che dalla vicenda della banca privata italiana, da quella del Banco Ambrosiano e da quella di un'altra banca tedesca, è nato il progetto di una legislazione condivisa a livello internazionale per il settore economico finanziario, in particolar modo per quello bancario, legislazione che è andata sotto il nome di Basilea e che poi è stata rivista, è diventata Basilea 2 e adesso abbiamo Basilea 3, ci rendiamo conto di come determinati settori cerchino di impedire il ripetersi di determinate situazioni. In questi ultimi 30 anni non è che il mondo economico finanziario sia andato esente da il ripetersi di un malaffare. Forse questo ci insegna che non si deve puntare tutto solo ed esclusivamente al sistema normativo. Stiamo parlando del mondo economico finanziario che comunque qualcosa ha fatto. Il mondo politico sembra non aver neanche fatto nulla per fare tesoro di quelle esperienze. Ecco perché ce ne occupiamo in un programma di economia. Allora, dottor Colombo, intanto vorrei un suo commento sull'ultima frase del figlio di Ambrosoli. Umberto dice, è vero, insomma, questo ha portato poi a Basilea, Basilea 1, Basilea 2, a regole più stringenti su come le banche possono prestare i soldi, che garanzie devono avere. Non è esente il mondo finanziario, ma la politica non si è mossa, è d'accordo? Ma vede, io credo che prima ancora della politica sia probabilmente una questione di cultura, di carattere generale, di modo di pensare più generale. Dopodiché la politica, secondo me, alla fine risponde alle convinzioni profonde. Io così constato che le convinzioni profonde sono magari non esattamente quelle che esistevano tempo fa, però ancora adesso l'interesse personale sembra prevalere molto spesso su tutto. Quali furono gli elementi finanziari, economici che portarono alla morte di Ambrosoli? Abbiamo chiarito nel racconto che insomma lui riceveva pressioni perché dicesse che Sindona aveva ben operato, così tutto il buco da 417 miliardi l'avrebbe dovuto coprire la Banca d'Italia, quindi lo Stato italiano. La collettività. La collettività, noi, esatto. La collettività l'avremmo dovuto, sì, coprire. Ecco, ma questo buco, un buco da 417 miliardi, dottor Colombo, non si fa così con investimenti immobiliari? Si è creato per via del fatto che i soldi dei contribuenti erano utilizzati, dei risparmiatori, mi scusi, certo. Dei risparmiatori erano utilizzati per finalità diverse da quelle, dalle finalità di istituto della banca. Sindona aveva creato un complesso di scatole cinesi, nel senso che svuotava per acquistare altre società, e quando a un certo momento il gioco è emerso, si è scoperto questo buco che era causato da quello, no? lei nel riassunto che ha fatto di tutta la vicenda ha sottolineato come poi Michele Sindona è stato condannato all'ergastolo in primo grado, è morto poi, quindi e quindi il processo è finito lì, perché è stato ritenuto, è stato riconosciuto come mandante di questo omicidio. La causa dell'omicidio sta proprio nel comportamento che ha assunto Giorgio Ambrosoli: si è tentato prima di corromperlo e poi lo si è minacciato. E lui era consapevole dei rischi che correva, perché nel febbraio del 1975 ha scritto alla moglie una lettera in cui prospettava anche l'ipotesi che fosse lei a dover allevare da sola i tre figli che avevano. Si è tentato in tutti i modi di ammorbidire la sua posizione, di fare in modo che lui trascurasse in sostanza quel che era il suo compito. Il suo compito era quello di ricostruire la contabilità della banca privata italiana, di vedere dove erano andati a finire i soldi e, nel caso ne avesse trovati, di recuperarli. Si è fatto di tutto per indurlo a desistere dalla seguire. E invece non ce l'hanno fatta. Io avrei un'ultima domanda per il dottor Colombo. Tanto, in una battuta, se questi soldi poi, come si sospetta, erano soldi della mafia, ma soprattutto vorrei capire perché, e chiaramente non ce lo auguriamo, ma negli anni dopo non c'è più stato un omicidio di un commissario liquidatore di una banca o comunque di un banchiere. Lì abbiamo avuto Ambrosoli, poi Calvi. Secondo lei è perché le banche sono più vigilate, oppure perché c'è un altro modo per ottenere le stesse cose senza ammazzare? È abbastanza difficile dare una risposta. Me ne ha fatto due domande. La prima, se i soldi erano soldi della mafia o anche soldi della mafia. Io posso dire soltanto che una ventina di giorni dopo l'omicidio di Giorgio Ambrosoli, all'inizio di agosto del 1979, Michele Sindona è scomparso dagli Stati Uniti facendo credere di essere stato rapito da un gruppo terroristico. Invece, accompagnato da mafiosi e da massoni, si era clandestinamente nascosto in Sicilia, dove è rimasto due mesi e dove in quei due mesi ha incontrato i personaggi più di spicco della mafia italiana e sulla seconda, e italo-americana. Sulla seconda domanda? La seconda domanda è: credo che sia impossibile riuscire a generalizzare. Io penso che ci sia magari l'una cosa e temo qualche volta anche l'altra, cioè che si ricorra magari a strumenti e a mezzi diversi. Grazie a Gerardo Colombo, che, appunto, lo ricordo, è stato prima il giudice e poi il giudice istruttore con titolare delle inchieste sull'omicidio dell'avvocato Ambrosoli. Grazie. Bene, vedo alcuni messaggi a 349-238-666. Non possiamo tornare su tutta la vicenda. C'è chi scrive: che pizza sta roba della banca privata. Eh sì, infatti, che pizza, soprattutto per chi poi ci ha lasciato le pene. Vabbè, non mi fate parlare, andiamo un po' più a respirare. Siamo in finale del programma. Wall Street continua a guadagnare lo 0,6%. Giuseppe Cruciani, sollevaci tu, visto che puoi tornare alla banca. Non troppo, in realtà, perché ci concentriamo su una frase pronunciata da Brunetta nel pomeriggio alla festa di Atreju, a proposito dell'aggressione subita da Bonanni ieri alla festa del Partito Democratico. Dice Brunetta che dentro la cultura e l'anima vera del Partito Democratico si mantiene una componente squadrista, reazionaria, estremista e conservatrice. Poi, naturalmente, tanti altri ospiti ai vostri interventi. Un tema leggero su questo. Allora, grazie Giuseppe Cruciani, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, per ora l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.